Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccoci, ci siamo, sono le 11.07, Fabio Cantadori in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, intanto buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia, andiamo subito ai titoli del nostro sommario. Scuola, inizia il conto alla rovescia, estate sotto vetro, impariamo a fare la marmellata, previeni le rughe con la dolcezza di un massaggio. Oggi è il secondo martedì del mese, qui ad Essere Benessere manteniamo le buone tradizioni e ci occupiamo di mamme e bambini. Il tema questa settimana direi è quasi d'obbligo, tra poco riaprono le scuole, questo significa un mondo di domande, di aspetti della vita dei nostri figli di cui occuparci, dalla colazione al grembiulino, dalla merenda ai compiti da fare, senza dimenticare che per molti genitori all'ascolto probabilmente questo è l'anno in cui i propri figli entrano a scuola per la prima volta. Quindi tante emozioni, tante attese, qualche timore, ce la faremo, problemi anche organizzativi. State però tranquilli, calma e gessetto mi verrebbe da dire, perché oggi insieme ai nostri ospiti daremo tutte le indicazioni per affrontare questo appuntamento alla grande. Allora, alcuni dei nostri ospiti sono in studio, naturalmente le mamme blogger, benvenute, bentornate, grazie, Veronica e Yolanda. Grazie, buongiorno a tutti. Abbiamo votato questo tema e devo dire che è stato molto gettonato, come sì. Sempre nei blog delle mamme mettiamo ogni mese alcuni temi, ne proponiamo sempre una rosa e questo mese ce lo aspettavamo, d'altronde le mamme hanno votato. Ma Yolanda, ripetiamo un po' per il prossimo mese, diamo le istruzioni per votare poi i temi del prossimo mese. Allora, si deve andare sul sito Blog Mamma, sul blog Blog Mamma, appunto, che è un web magazine per mamme, che si trova all'indirizzo www.blogmamma.it, e lì c'è il sondaggio con cui si sceglie appunto il tema della puntata. In linea con noi non poteva mancare la dottoressa Manuela Trinci, psicologa e psicoterapeuta dell'età evolutiva. Buongiorno dottoressa Trinci, bentornata. Buongiorno a voi, grazie dell'invito, è un tema delizioso direi. E qua in studio abbiamo Alberto Pellai, medico, anche lui psicoterapeuta dell'età evolutiva, che quest'anno tra l'altro accompagna a scuola per la prima volta due dei suoi quattro figli. Alberto, quest'anno è... Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Ti sveglierai all'alba. Ho già proprio lunedì prossimo una giornata tenuto tutta la mattina per fare tutti i dovuti accompagnamenti a scuola. Vi siete già divisi con tua moglie i compiti? Io sono quello che accompagna alla scuola elementare, lei è quella che accompagna alla scuola materna. E poi per quanto riguarda merendine piuttosto che cartella, grembiulini, vi siete divisi? Allora, avete fatto proprio una definizione o no. Giorno per giorno deciderete? La mamma è proprio la grande organizzatrice, come una grande manager dell'impresa familiare. In questo momento però mi devo dare da fare anch'io, perché siamo rimasti senza il grembiule per l'Alice, che entrerà in prima elementare, e non si trova un grembiule da nessuna parte, quindi ci dobbiamo dare da fare in questi giorni. Allora io approfitterei, le mamme sono qua già che se la ridono, vorrei fare un giro di tavolo e chiedere prima alle mamme, poi naturalmente chiederemo anche aiuto alla dottoressa Trinci e ad Alberto Pellai qua nella doppia veste di esperto e di papà, una vostra certezza, qualcosa che vi rassicura, e invece un vostro timore nell'affrontare questo appuntamento. Inizierei da Veronica. Ma allora, premessa, la mia situazione è: questa settimana faccio un inserimento alla scuola materna e settimana prossima faccio un inserimento al nido. Quindi, al di là del fatto delle individualità dei bambini che sono diverse, ciò che mi rende sicura è il mio atteggiamento, forse perché è qualcosa che so di poter controllare. Cioè, secondo me bisogna essere estremamente positivi durante l'accompagnamento del bambino, essere sorridenti, far capire che la mamma è serena in questo momento di passaggio, perché il bambino si rispecchia molto nel genitore e sente sempre la tua debolezza. Se lui non è contento di andare e vede che anche tu sei titubante, vacilli, è la fine. Invece quello che mi rende un po' dubbioso, e magari qualche esperto potrebbe venirci in aiuto, è questo: ci sono degli asili che ti propongono classi di età omogenee e degli asili che invece preferiscono mischiare un po', mettere il bambino di 3 anni con quello di 4, con quello di 5, quindi vorrei capire pro e contro di questa cosa. Magnifico, io me lo segno, magari anche i nostri ascoltatori che sono invitati ad intervenire all'800 24 00 24 possono magari aiutare la nostra mamma. Passerei a Yolanda. Allora, la mia sicurezza è che comunque sia all'asilo che a scuola, per fortuna i miei bambini si sono sempre trovati bene, quindi io vado sicura e tranquilla. E invece un mio dubbio, che anche lì mi piacerebbe che qualcuno mi desse qualche idea o comunque mi consigliasse, è per esempio quale tipo di merenda a scuola è adatta per il bambino, per non appesantirlo, per non averlo invece troppo leggero, troppo poco. Insomma, mi piacerebbe sapere se c'è qualcosa di, non dico perfetto perché la perfezione in questo mondo non esiste, però insomma qualcosa che vada bene, che vada bene a metà mattina. Dottoressa Trinci, diamo prima la parola ad Alberto, ma qua come papà, e poi vogliamo un suo rapido commento. Alberto, come papà? Come papà devo dire che noi in casa abbiamo un po' la certezza di sapere cosa ci aspetta, perché abbiamo già affrontato con i nostri figli sia un ingresso alle elementari sia un ingresso alla scuola dell'infanzia. Come dubbio è proprio ognuno dei nostri figli è diverso, e quindi in particolare sono curioso di vedere cosa succederà a Pietro, che entra alla scuola dell'infanzia, alla scuola materna, nel contatto con così tanti bambini nuovi che lui dovrà, con cui dovrà relazionarsi. Dottoressa Trinci, ci rimettiamo a lei. Mamma mia, che responsabilità. Lo so, Però è piacevole, perché è il primo giorno di scuola. Io credo che quello che diceva Veronica, no, mi sembra importante rispetto al discorso che aveva questo dubbio. Due cose importanti diceva: uno è come i genitori possono affrontare questo primo giorno, che era la stessa cosa che diceva anche Yolanda, con una sorta di sicurezza. Se i genitori sono contenti di mandare i loro bambini, soprattutto se sono bambini piccoli, al nido, anche i bambini risentono positivamente di questo clima. E poi teniamo conto che anche i bambini sono cambiati. Io che lavoro ormai da più di 20 anni, devo dire che all'inizio del mio lavoro tante domande dei genitori, ma anche delle educatrici, arrivavano proprio sul tema dell'inserimento. Adesso effettivamente i bambini sono più socievoli di una volta, perché spesso sono figli unici, a parte quelli dei bambini di Alberto. Però è una tribù, è un asilo già, a casa di Alberto, esatto. Pellai c'è già un asilo pronto. Esatto. Quindi vanno anche volentieri, perché le mamme li hanno già anche abituati fin da piccolini proprio a stare in compagnia. Addirittura noi abbiamo visto anche nelle nostre trasmissioni bambini da 0 a 12 mesi che cominciano a giocare insieme, quindi c'è sicuramente un retroterra diverso, e c'è un retroterra diverso anche nei genitori, che mentre prima mandavano i bambini per esempio al nido con una certa difficoltà, perché sembrava quasi di scaricarli, no? di non farsene cura, effettivamente ora questo non succede più. I nidi, le scuole dell'infanzia sono spesso dei luoghi meravigliosi. Per quanto riguarda invece la scuola elementare, io che ho avuto un po' esperienza di bambini che andranno in prima elementare, io credo che i genitori dovrebbero stare davvero attenti, intanto che vanno i bambini il primo giorno a scuola e non loro, e questo mi sembra una differenziazione importante. L'altra è evitare per esempio di dargli bacio a ventosa, perché i bambini che sono in prima elementare hanno un po' una loro dignità, e quindi questo eccessivo, già lottano loro, no, per distaccarsi emotivamente, quindi queste modalità spesso troppo protettive dei genitori li fa sentire un po' in imbarazzo. Così come eviterei di raccontare la trafila che la bambina ha messo per scegliere il vestito, ecco, cioè mantenere un pochino questi aspetti di intimità. Teniamo conto che se è vero che i bambini di oggi sono più competenti da un punto di vista cognitivo, è anche vero che hanno comunque le loro insicurezze. Spesso noi ci si lascia un po' fregare da questi bambini che parlano benissimo, che sanno tutto, e ci si aspetta anche molto da loro. Invece in questi primi momenti è importante che il bambino senta l'affettività del genitore, senta l'affetto, che non ha bisogno di un eccessivo appiccicamento. Quindi diciamo, no alla mamma cozza. Perfetto, ecco. Ha sintetizzato il mio pensiero. Ecco, in maniera, no, perché io sono abbastanza, sono stata una mamma cozza, ma poi le mie figlie mi hanno in qualche modo rieducato. Alberto. Io riprendo anche il dubbio che aveva sollevato Veronica rispetto a quando nella scuola dell'infanzia, nella scuola materna, troviamo bambini, classi organizzate con bambini tutti della stessa età, oppure bambini che invece hanno classi che hanno la cosiddetta struttura verticale, con bambini di 3

chiudere ermeticamente, bollire e bollire almeno per un quarto d'ora questa marmellata nel barattolo in un pentolone coperta d'acqua, quindi sì, diciamo i barattoli devono completamente essere coperti, anche il coperchio, e bollire per un certo tempo. E in almeno un quarto d'ora, vero dottoressa? Almeno un quarto d'ora, sì. Io personalmente, diciamo, per avere ancora più tranquillità, sì, aggiungo sulla superficie della marmellata calda e bollente appena messa nei barattoli un cucchiaino di alcol a 90 gradi, quello da dolci, diciamo, sì, e faccio come la produco la fiamma, come il flambé, esattamente, e senza che la fiamma si spenga chiudo, cioè metto il coperchio nel barattolo, e dopo pochi minuti noi sentiremo proprio il rumore del vuoto, cioè sì, viene classico, consumato tutto l'ossigeno che rimane quell'intercapedine man mano che si consuma la fiamma, quindi viene fatto ermeticamente il vuoto, ecco, e in questo caso diciamo abbiamo un'ulteriore garanzia. Quindi meglio farle tutte e due, dottoressa? Ecco, io lo faccio, ecco, direi è un'ulteriore garanzia, sì. Dottoressa, io la ringrazio per essere stato con noi. Chiedo alle mie ascoltatrici di inviarci magari le ricette delle loro marmellate e poi le passeremo alla dottoressa, che così, no, facciamo uno scambio. Lei ci insegna molto l'igiene, volentieri, e noi le diamo le ricette. Volentieri. Io sono una brava produttrice di marmellate d'arancia. Allora, magnifico, ci sentiremo presto. Grazie molto dottoressa, bene, buona giornata. Grazie a lei. Pronto soccorso. E voi preparate le marmellate per i vostri ragazzi, Yolanda? Non sono una grande cuoca, devo ammettere il mio. Io non ci penso nemmeno. Ecco. Alberto, ma non ci sono più le mamme di una volta. Ma io ho 10 anni quando avrò tempo. Però è possibile prendere le... Sì, sul mio sito, che è filastrocche.it, ho messo le etichette per quelle brave mamme che fanno le marmellate per i loro bambini, possono stamparle su carta adesiva e possono attaccarle sui barattoli. Qualche nonna che vuole fare qualche nonna, magari qualche nonna. E invece noi riprendiamo un po' il tema del giorno, andiamo a scuola, ci prepariamo per tempo per dare modo anche a voi da casa, se dopo questa trasmissione vi rimanessero dei dubbi scriveteci a essere benessere@radio24.it e Alberto Pellai e la dottoressa Trinci, la coinvolgeremo sicuramente, potranno rispondere ancora alle vostre mail. Tra l'altro, sempre a proposito della riapertura delle scuole, lunedì prossimo Radio 24 dedicherà spazio all'interno della programmazione a questo tema e dedicheremo infatti il Radio Day con collegamenti in ogni GR con le scuole, con esperti, e poi martedì 15 uscirà un rapporto del Sole dedicato alle famiglie proprio in occasione della ripresa dell'anno scolastico. E allora noi riprendiamo il passo con Rossella, che ci chiama dalla provincia di Pisa. Rossella, buongiorno. Sì, buongiorno. Una domanda volevo chiedere. Io sono mamma di 2 gemellini maschietti, eterozigoti, quindi sì, non sono identici. Adesso fanno 10 mesi e mezzo, hanno un inserimento al nido lunedì prossimo. Chiedevo, per il nido, anche per il futuro, per la materna elementare, è giusto metterli in classe insieme oppure separarli in classi diverse? Alberto, allora, quando diventano più grandi, separare è un aspetto interessante, è un aspetto importante e molte volte viene consigliato ai genitori. L'inserimento al nido di 2 gemelli prevede che in realtà dentro allo spazio di un nido abbiano davvero tantissimi momenti in comune, quindi quando parliamo di classi in realtà il nido è un concetto che non è così condiviso. Probabilmente hanno poi dei momenti in cui ci sono attività separate in base al numero di bambini che ci sono, in base al numero di età. Personalmente penso che quando sono così piccoli i 2 gemelli facciano bene anche a stare insieme, però sono molto interessato anche al parere della dottoressa Trinci. Io condivido quello che ha detto proprio ora il dottor Pellai, nel senso che io penso che 2 gemelli, ho avuto una cosa curiosa, un inserimento qui a Pistoia, un nido di 3 gemelli, ed erano talmente uguali che le educatrici chiesero ai genitori di vestirlo, uno di giallo, uno di rosso e uno di blu, così da poterli riconoscere. Io inizialmente proprio non farei un lavoro di separazione dei bambini, hanno proprio bisogno di momenti in comune, saranno poi le educatrici che aiuteranno i bambini a differenziarsi, e allora sarà come adesso, sarà come questi tre gemelli di cui vi parlavo, che ormai sono grandi e che davvero sono cambiati anche fisicamente, perché le emozioni, l'espressione delle emozioni poi lavorano anche sulla fisicità dei bambini e quindi si differenziano nel tempo molto bene. Però all'inizio stanno bene, stanno volentieri insieme. Maurizio invece ci chiama da Roma. Buongiorno Maurizio. Buongiorno Maurizio, ricordo il numero verde 800 24 00 24, che è quello che ha fatto Maurizio per entrare nella nostra trasmissione. Quindi un papà, immagino, Maurizio, o un nonno? Un nonno. E appunto avevo telefonato per forse un consiglio, un suggerimento. Io ho un nipote che dopodomani va a scuola materna e abbiamo un problema, perché non vuol sentire la parola bimbi o bambino, e la parola che, se lui è bambino, reagisce educatamente, ma no, io sono un ragazzo. E adesso dopodomani dobbiamo darne conto alla sua maestra, ma è un problema davvero, guardi, gli dico, l'altro giorno sono andato a giocare su Benalotto e allora dice, è bello sto bambino, insieme all'altro lì, ha reagito un po' seccato. E ha detto, sono un giovane uomo, un giovane ragazzo? Sì, lui dice che è ragazzo, dice che è grande, e ha sempre fatto così, già da 2 anni, 1 anno e mezzo, si è comportato sempre da più grande, non ha creato problemi, mangia, fa tutto lui, anzi fa di più. E c'è l'altro di 8 anni che insieme tutti e due la mattina non prendono roba dolce. Beh, una colazione, se un bene, se un male, una colazione salata. Affronteremo il tema della colazione, sicuramente importante, perché molti bambini tendono a saltarla perché non hanno fame, invece il cervello ha proprio bisogno di avere scorte, energia. Ma dottoressa Trinci, questo giovane uomo sentivo che ridacchiava. Simpatico. Ma ci sono dei personaggini incredibili. Incredibili, veramente. Comunque questo giovane ragazzino ha un fratellino di 8 anni, no? Quindi mi sembra anche, se ho capito bene. Sì, ha capito parole, benissimo. Dal nonno. Quindi mi sembra che sia evidente anche questo non voler. Da una parte mi sembra sia evidente questo confronto con il fratello più grande e quindi questo voler essere un ragazzino anche lui. Dall'altra parte, secondo me, c'è un po' quello che si diceva all'inizio della trasmissione, che i bambini di oggi sono bambini sui quali si fa molto affidamento. Ecco, sono bambini che fino da piccoli ci stupiscono per quanto dicono, per come lo dicono, per come si muovono, per la saggezza implicita che spesso hanno, per cui siamo abituati noi stessi, noi adulti, a trattarli come bambini più grandi. Per cui poi è difficile per un bambino ritrovarsi nella pelle del bambino piccolo. Ecco, questa forse è una disarmonia nei bambini di oggi che si vede proprio tante volte. Io li chiamo i giganti con i piedi d'argilla, perché poi magari si ciucciano ancora il dito oppure fanno la pipì a letto, eccetera eccetera eccetera. Quindi sono delle spie, piccolissime spie sulle emozioni. Può darsi che questo giovane ragazzo faccia leva su questi certo aspetti. Certo. E allora, bambino, insomma, gli lasciamo dire, sono un giovane ragazzo. In fondo ha le sue buone ragioni. Eccoci, siamo tornati. Oggi ci prepariamo ad andare a scuola, a tornare o a entrare proprio nella scuola materna o nella scuola elementare per la prima volta. Quest'anno devo dire che ricominciare la vita scolastica provoca in alcune mamme un po' di paure, perché le scuole riaprono, ma abbiamo anche l'influenza da virus A di cui parliamo, che tutti un po' temiamo, che insomma cerchiamo di tenere a bada la paura, ma comunque anche tra le mamme molte ci hanno scritto. E allora io ho voluto invitare il professor Remuzzi, che è tornato a trovarci. Professor Remuzzi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Professore, allora, le mamme sono un po' preoccupate, anche le mamme qua in studio mi dicono, ma adesso i bambini tornano a scuola, baci, effusioni, se si ammalano. Ad esempio una mia amica proprio stamattina mi diceva, se parlate di rientro a scuola, io ho il mio piccolino a 2 anni, potrei tenerlo a casa, lo mando al nido, però in effetti a tenerlo a casa ho anche il fratello che va già all'asilo, e quindi serve, non serve. Professor Remuzzi, lei che cosa farebbe? Ma chiudere le scuole non è una soluzione. No. È stato fatto uno studio nell'Lancet che ha analizzato vantaggi e svantaggi di chiudere le scuole, hanno utilizzato molti modelli, si sono basati sui dati delle pandemie precedenti, quella del 18 in Australia, del 1954 in Francia, del 2000 in Israele e del 2008 a Hong Kong. Il problema è complesso. Al di là degli effetti della chiusura delle scuole sull'economia, che sono molto importanti, ci sono effetti negativi sul sistema sanitario. Hanno visto, per esempio, che il 70% degli operatori negli ospedali sono donne. Almeno la metà di loro ha un bambino sotto i 16 anni. Se chiudono le scuole, se ne dovranno occupare. E questo sulla salute della gente potrebbe avere degli effetti ancora più gravi dell'influenza. C'è un altro problema. Uno potrebbe dire: mi organizzo a tenere i figli a casa. Sì. Però se lo si tiene a casa per un periodo lungo, qualcuno potrebbe perdere il lavoro o tanti avranno la preoccupazione che questo possa succedere. Anche qui sono effetti che vanno considerati. Qualcuno potrebbe dire: faccio in modo che i figli imparino a badare a se stessi. Hanno studiato anche questo problema. E questo porta a un aumento degli incidenti in casa, che possono essere più gravi dell'influenza, e a più occasioni per i ragazzi che stanno a casa da soli di essere esposti ad alcol e droga. E poi c'è il buon senso. Quando le chiudiamo le scuole? Le chiudiamo prima di aprirle? Ma adesso si era detto chiudiamole, si è visto che non vale la pena, perché l'influenza, e infatti è così, potrebbe non aver ancora raggiunto il suo momento di maggiore diffusione. Se le chiudiamo quando cominciano a manifestarsi i primi casi, potrebbe essere tardi per limitare la diffusione del virus. E ammesso di chiuderle, le chiudiamo per quanto? Immaginiamo di chiuderle a ottobre e riaprirle a dicembre, ma a dicembre l'influenza potrebbe non essere passata, allora siamo da capo. Certo. Certo, ci possono essere particolari situazioni di piccole epidemie che si sviluppano all'interno di certe scuole, allora lì vale la pena di considerare di chiudere le scuole, perché questo può certamente un pochino ridurre la diffusione del virus, ma farlo sistematicamente non serve. Io penso che non serva. Senta, professore, ma volevo chiedere una cosa. Riguardo i bambini piccoli che possono essere tenuti a casa, lei li terrebbe a casa poi o alla fine magari cercando così di organizzarsi con i nonni, oppure tanto vale che vadano intanto comunque, nel caso c'hanno il fratello, la mamma che lavora e quindi sarebbe una misura inutile? I bambini piccoli non hanno delle difese immunitarie nei confronti di questa influenza, e questa influenza colpisce di più i bambini piccoli che gli adulti, e questa è la differenza con l'influenza stagionale. Quindi io non chiuderei assolutamente le scuole per i bambini che vanno a scuola e non terrei a casa bambini in età scolare. I bambini piccoli, quelli dai certamente sotto i 6 mesi, ma anche dai 2 ai 6 anni, se le famiglie sono organizzate per tenerli a casa senza che questo porti altri problemi che possono essere più gravi di quello di prima, certo potrebbe valere la pena di non farli frequentare ambienti, particolarmente se in questi ambienti ci sono stati casi di influenza. Quindi l'idea di tenere a casa un bambino di 2 anni, finché non si vede come evolve la situazione, quanti casi ci sono eventualmente di influenza in quella scuola lì, può essere un'idea ragionevole, proprio perché questa influenza colpisce di più i bambini degli adulti. La cosa interessante è che però la maggior parte delle complicazioni si sono viste nei bambini più grandi, nei bambini che hanno 5-8 anni e anche più grandi di 8 anni, e questa è una cosa che potrebbe tranquillizzare un pochino le mamme. Professor Remuzzi, grazie. Lei non è in fase di accompagnamento a scuola, noi ormai l'abbiamo già dato, come si dice. Quest'anno fortunatamente mi piacerebbe, è stata una fase molto bella. Va bene, guardi che comunque qua ce ne sono di figli da accompagnare a scuola, ci sono quelle delle nostre mamme blogger di Alberto Pellai, le venisse un po' di nostalgia, avesse un po' di tempo, ci prestiamo anche io e il professor Remuzzi. Professore, la ringrazio, buona giornata. Grazie, arrivederci. Andiamo alla provincia di Varese, perché ci aspetta Andrea, 824 0024. Benvenuto e buongiorno. Sì, buongiorno, sono Andrea De Monazzone, salve. Buongiorno a lei, Andrea. Io sono un papà e volevo riportare un attimino la mia esperienza, no? Anche per tranquillizzare un attimino le altre persone, che io ho una bambina piccola di 4 anni, ho iniziato l'asilo l'anno scorso. Sì. E quindi la mia bambina era molto timida, anche perché è cresciuta con i nonni e basta, praticamente con noi, con i nonni, quindi non interagiva con altre persone. Invece ci ha stupito, io avevo questa preoccupazione che non riuscisse a socializzare, che so io, no? E invece ci ha stupito in maniera positiva, perché comunque lega benissimo con tutti, rimane sempre molto timida, ma alla fine sono tutti problemi che ci facciamo noi genitori, diciamo, no? Sì, noi abbiamo un po' questa caratteristica, vero Alberto, di facciarci la testa prima che sia rotta. Certo, in generale per un bambino timido è più difficile effettivamente inserirsi velocemente, facilmente dentro a una classe di scuola dell'infanzia, però impariamo a separare bene la timidezza dalla sicurezza. Bambini molto timidi che però hanno avuto relazioni con adulti significativi molto positive, molto ben impostate fin da quando erano piccoli, sono bambini che hanno un modello interno di sicurezza e quindi si inseriscono bene. Marco ci chiama invece da Ascoli, buongiorno Marco. Buongiorno. Senta, io ho un timore. Mia figlia quest'anno si trova a affrontare il primo anno di scuola elementare. È una bimba molto vivace, non cattiva, molto vivace. Vivace a tal punto che alcune volte noi genitori perdiamo la pazienza e sappiamo che i primi anni di scuola sono i più importanti. Non vorrei che l'insegnante, che non ha nulla di parentela con mia figlia, la prende in antipatia, non so se affrontare il discorso e dirgli che mia figlia è così vivace oppure lasciare che lo scopra da sola. Marco, grazie per la sua domanda, dottoressa Trinci. Un piccolo Gian Burrasca. Ma io però una Judy Moore, come si dice per le bambine. Io lascerei che l'insegnante la conoscesse, anche proprio perché, come si diceva all'inizio, l'ingresso in prima elementare per i bambini può rappresentare anche un ribaltamento della propria identità. Io mi ricordo di una bambina che è arrivata in prima elementare e voleva cambiare nome, perché lei era diversa dalla bambina che andava alla scuola materna. Quindi lasciamo anche davvero questa possibilità di cambiare, non è più la bugiarda della scuola materna, potrebbe diventare un'altra cosa, non è più l'irriverente oppure la burrascosa bambina, ma chissà come l'elementare, come la nuova scuola, i nuovi amici, la nuova insegnante, perché ricordiamoci che, come accennava già prima anche Alberto Pellai, i bambini nascono dentro alle relazioni, quindi una relazione diversa tra questa bambina e la sua insegnante, il suo gruppo classe, può anche dar luogo a un cambiamento della bambina, come pure no. Ma lasciamo. Appunto, non ci facciamo la testa, ecco. Calma e gessetto, come abbiamo detto in apertura. E un gessetto, mi ricordo, l'ha utilizzato anche in una fiction che è rimasta veramente, ha fatto storia, l'amico che abbiamo in linea con noi, Marco Columbro. Ciao Marco. Scusa un attimo, c'ho un'intervista alla radio, scusa, ti chiamo tra due minuti. Sì, Marco. Pronto? Marco, siamo noi la radio. Sì, lo so, ma che importanza. Un amico che sta. Senti, ma che importanza. Senti Marco, dicevo, il gessetto l'hai usato anche tu in Caro Maestro. Adesso io, ecco, infatti volevo sapere, tu sei stato dall'altra parte, però sei stato anche tra i banchi di scuola. Marco, com'eri a scuola tu? Ah, dunque, ero come si potrebbe dire, un iperattivo, ecco, molto casinista. Soprattutto poi andato avanti con gli anni alle medie, alle superiori eccetera, però ero già all'elementare, ricordo che ero un po' il burlone della classe, facevo le imitazioni di Rachel, di Mike Buongiorno, mi divertivo a fare queste cose qua, quindi tenevo allegra tutta la compagnia. Tu te lo ricordi il tuo primo giorno di scuola? No, io però mi ricordo che all'elementare, in prima seconda, ero innamorato della mia maestra. È un classico. È classico, che era una ragazza ai miei occhi giovane, carina, mora. E allora io cosa facevo? Avevo trovato un escamotage, una cosa simpatica. Cioè io uscivo per ultimo e poi fuori dalla porta mi slacciavo le stringhe delle scarpe. Per cui stavo lì, armeggiavo finché arrivava la figlia. Marchino, cosa hai fatto? Le stringhe, aspetti una mano. E lei mi faceva il fiocco. E ci cadeva tutte le volte? Sì, una volta no, praticamente tutti i giorni era la stessa zolfa. Perché poi mi prendeva per mano e mi accompagnava fuori dalla classe, fuori dalla scuola. Per cui il fatto di prendermi per mano, di stare con lei quei pochi minuti, per me era una cosa bellissima. Facevi un'uscita trionfale. Sì, ma ero felice di stare accanto a lei, il fatto che ci prendessimo per mano, insomma era un amore vero. Senti Marco, io ti inviterò perché dovremmo, con Alberto avevamo pensato proprio di dedicare un'intera puntata alla maestra del nostro cuore, e Marco quindi ti rinvito perché sicuramente avrai delle altre cose da raccontarci. Intanto ti ringrazio e ti abbraccio. Ma grazie a te Nicoletta. Un saluto a tutti i tuoi ospiti, gli spettatori, e buon lavoro. Grazie, anche ciao, a te. Arrivederci. Allora, io direi, torniamo rapidamente, proprio Alberto, a dare delle regole per l'inserimento, che non vuol dire solamente portare il bambino a scuola, ma c'è un prima, un durante e il pomeriggio. Quindi, tre consigli flash. Allora, per il prima... utilizzate benissimo questi giorni, preparatevi all'ingresso a scuola insieme ai vostri figli, fare le copertine, i libri, preparare il grembiule, preparare l'astuccio. Questo significa proprio predisporvi insieme ad inserirsi in una nuova scuola. L'inserimento che vi consiglieranno alla materna, fidatevi di quello che vi dicono le insegnanti, eventualmente discutete con loro se avete altre idee, e il dopo date sempre ai vostri figli l'idea che siete pronti ad aspettarli quando la scuola sarà finita e avete un sacco di voglia di stare con loro. Naturalmente, se avete problemi, se il bambino piange, se nonostante i nostri consigli, i consigli dei nostri esperti, la cosa vi sembra un po' difficoltosa, macchinosa, crescono i dubbi, se avete qualche ansia da mamma cozza, io le conosco bene, scriveteci, abbiamo a disposizione i nostri esperti e anche le nostre mamme blogger. Quindi, insomma, una grande famigliona, e proviamo, no, a darci tutti una mano. Ringrazio Yolanda, ringrazio Veronica, appuntamento su Mamma Blog per scegliere insieme. Blog mamma per scegliere insieme il tema del prossimo mese, perché noi ci vediamo il secondo martedì di ogni mese con un nuovo tema che sceglieranno le mamme. Dottoressa Trinci, la ringrazio. Grazie a voi e a presto. Spero. Buon rientro anche per lei. Grazie. E adesso pronti per un po' di ginnastica, non servono attrezzi, tute, scarpe, abbiamo già tutto l'occorrente, vi assicuro che faremo poca fatica e con buone probabilità otterremo ottimi risultati. Parliamo infatti di ginnastica facciale, esercizi mirati, brevi, da ripetere ogni giorno per prevenire le rughe o attenuare quelle esistenti. In linea con noi è tornato a trovarci, io sono molto contenta, il professor Antonino Di Pietro, dermatologo plastico e presidente dell'ISPLAD. Professore, bentornato. Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori, anche a lei. Professore, noi siamo pronti, sono pronte anche le mamme che sono in studio con me, quindi noi mettiamo la faccia, lei faccia il resto, come si dice. Certo, anche perché dobbiamo ricordare che la ginnastica facciale è importantissima. Se vogliamo potenziare un muscolo, dobbiamo cercare di capire l'azione che quel muscolo compie. Allora, pensiamo alle guance che col passare degli anni tendono a scivolare verso il basso e sì. danno quell'aspetto un po' a bulldog caratteristico. Sì. Per potenziare quei muscoli che si inseriscono tra lo zigomo e la mandibola, e sono quelli che ci fanno masticare, per intenderci, ci fanno aprire e chiudere la bocca, dobbiamo cercare di mantenere la bocca aperta mettendo delle mani, logicamente dopo averle lavate, in bocca, cercando di aprire la mandibola spingendola verso il basso, e contemporaneamente dobbiamo cercare di chiudere la bocca, quindi con la mano cerchiamo di tenerla aperta e con muscoli laterali dobbiamo cercare di chiuderli. Ecco, cerchiamo di fare questo esercizio per una decina di volte mentre guardiamo il televisore o siamo in macchina, no, perché è pericoloso, logicamente, ma quando siamo in un momento di relax, e questo può aiutare sicuramente a mantenere in forma le guance, soprattutto quindi, la parte laterale. Quindi non restate con le mani in mano, lavatele e provate a fare l'esercizio consigliato dal professor Antonino Di Pietro, che spero tornerà a trovarci. Ah, ma molto volentieri e con piacere. Intanto noi ci alleniamo, così la accogliamo con delle guance che vanno in su, stanno in su, eh? Professore, vale anche sempre il sorriso come ginnastica facciale? Scaccia rughe, scaccia guai? Il sorriso vale sia come ginnastica, ma non solo per i muscoli, ma anche per la mente. Impariamo a sorridere, perché quando siamo felici siamo sempre anche più belli. Professor Di Pietro, grazie per essere stato con noi. Buonissima giornata. Anche da parte mia, presto. E il nostro appuntamento torna come sempre domani, dopo il GR delle 11. Portate con voi un amico. Una buona giornata da Nicoletta Carbone.